Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Arrossisce, impallidisce, suda, si irrita. Questo e molto altro ancora sa fare la nostra pelle. Buongiorno da Nicoletta, care amiche, cari amici. Oggi parliamo di lei, che ci contiene, ci protegge, ci separa e parla. Racconta di noi, di dove viviamo, del lavoro che facciamo, delle nostre paure, delle nostre soddisfazioni, dell'amore che abbiamo ricevuto, di quello che abbiamo dato. A chi la sa guardare, regala verità che spesso le parole non sanno raccontare. Allora, volete guardarle insieme a me? Imparare a interpretare il suo linguaggio, decifrare i suoi messaggi, i suoi cambiamenti? Io direi di provarci, perché questo esercizio potrebbe rivelarsi molto interessante. E aggiungerei salutare. Pensate che tra pelle e psiche esiste un legame molto stretto, tanto che è stata definita il nostro cervello esterno. Intanto voglio salutare il professor Carlo Gelmetti, che è direttore dell'Istituto di Scienze Dermatologiche dell'Università di Milano, che è in linea con noi. Professore, bentornato. Grazie, grazie a voi. Professore, tra pelle e cervello esiste una specie di corsia preferenziale, perché sono quasi parenti, mi lasci usare questo termine, dato che originano da uno stesso foglietto. Ci vuole raccontare, perché la cosa è estremamente interessante. Ma sì, sono parenti, anzi direi parenti stretti, molto più di quanto si possa pensare con una valutazione così un po' da bar. Bisogna dire che quando noi siamo piccolini come un gamberetto, il nostro corpo è fatto sostanzialmente da tre strati: uno fuori, che diventerà la nostra pelle, uno a metà, che diventerà i nostri muscoli e le ossa, e uno al centro, che diventerà evidentemente il nostro intestino. Orbene, quando siamo così piccoli, da alcune cellule che stanno all'esterno, quindi che stanno diventando poi la nostra pelle definitiva, si origina una specie di sporgenza che diventerà il nostro cervello, il nostro sistema nervoso centrale periferico. Quindi la parentela tra pelle e cervello è una parentela assolutamente antichissima dal punto di vista dell'evoluzione, e non a caso quindi nel futuro sviluppo dell'embrione questa roba qua non si dimentica, anche se noi magari non ne siamo a coscienza dal punto di vista scientifico. 800 24 00 24, se volete intervenire potete scriverci al 349 238 6666. Pelle e cervello. Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te, e dalla pelle al cuore, adesso sto davanti a te. Dalla pelle al cuore, con questa canzone di Venditti, che a me personalmente piace moltissimo, voglio introdurre il dottor Traverso, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno dottor Traverso. Buongiorno, ben ritrovati. Dottor Traverso, la pelle è il telegrafo per il mondo esterno e specchio per il mondo interno. La definizione però non è mia, ma di un medico scrittore, il dottor Mantegazza. Lei è d'accordo? Assolutamente sì, non si può non essere d'accordo con una convinzione che non è neanche tanto recente, appartiene anche veramente alla storia della medicina, alla storia della filosofia, quando ancora non si poteva dire che ci fosse una scienza psicologica. Quindi direi che la pelle è tutto ciò che contiene non solo i nostri organi, ma il nostro mondo interno nel senso più ampio del termine, quindi la nostra emotività, i sentimenti, le passioni, i dolori e l'ambiente che ci circonda. Rossore, pallore, prurito, sudorazione, ciascuna di queste situazioni racconta qualcosa di noi. Si arrossisce per la vergogna, si sbianca per la paura, poi le mani sudano quando siamo molto emozionati, preoccupati, tesi, e spesso, dottor Traverso, noi siamo più pronti a leggere questi segnali, a interpretarli sulla pelle degli altri che non sulla nostra. Questo avviene per un meccanismo tutto sommato molto banale. Ad esempio, tutte le manifestazioni che avvengono a livello del viso non sempre siamo in grado di percepirle, quindi a volte si arrossisce senza averne neanche la percezione, a volte si sbianca senza averne la percezione, quindi è chiaro che sono degli eventi che vediamo più facilmente negli altri, in coloro che ci stanno intorno, che ci stanno di fronte. Guarda e rifletti, dottor Traverso, questo è un po' l'esercizio che potremmo provare e proporre oggi ai nostri ascoltatori. Allora, c'è un esercizio che direi è possibile fare proprio come metodo di presa di coscienza di quello che avviene. Abbiamo detto che all'interno del nostro corpo certamente ci sono tanti organi, tante funzioni, tanti elementi che tengono il corpo, quando possibile, in una condizione di bilanciamento, una condizione di omeostasi, omeostasi quasi perfetta. Certamente ci sono una serie di eventi nell'arco della vita che possono comunque alterare questo tipo di equilibrio. Fra questi ci sono i sentimenti, le emozioni, le passioni, come dicevamo prima, e sicuramente ci sono quelle alterazioni della propria quotidianità che non hanno rilevanza clinica. Ad esempio, nel linguaggio comune si parla di sentirsi leggermente ansiosi, leggermente depressi, non ci sono segni clinici, non è necessario intervenire con una terapia, però se ogni persona riuscisse ogni mattina a darsi un punteggio da 1 a 10 di qual è la condizione di ansia percepita, quindi quell'agitazione apparentemente immotivata che non ha effettivamente un bersaglio chiaro, oppure qual è da sempre da 1 a 10 il proprio livello di depressione intesa come umore leggermente basso, ecco, come vedere le cose nel senso del bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno. Io credo che questa è già un indicatore di quello che può essere la propria quotidianità e anche del perché durante la giornata può apparire un prurito, un formicolio, uno sbiancamento o comunque possono manifestarsi anche delle situazioni decisamente più serie dal punto di vista dermatologico, tipo acne, psoriasi, alopecia o altre problematiche di questo genere. Allora, intanto, se volete intervenire 800 24 00 24, che cosa vi dice la vostra pelle, che segnali vi manda, sapete interpretarli, fatevi aiutare dai nostri esperti, perché in linea abbiamo il professor Gelmetti e il dottor Traverso che rimangono per noi, con noi tutta l'ora. Professor Gelmetti, noi possiamo dire che la pelle è un organo quindi con grande capacità di espressione, che è capace di rispondere rapidamente agli stimoli interni ed esterni ed è particolarmente sensibile allo stress. Molte malattie della pelle esordiscono o si aggravano proprio a causa dello stress: le dermatiti, l'acne, la psoriasi, l'herpes. Questo è ormai provato, vero professor Gelmetti? Ma sì, il problema è che c'è una enorme differenza tra soggetto a soggetto nella risposta a questi stress rispetto alla patologia di cui soffrono. Ad esempio, ci sono un'esperienza comune che alcune persone durante l'estate esagerano col sole e gli viene fuori l'herpes labiale. Allora, in questo caso ovviamente è la conferma che troppi raggi ultravioletti in uno che non sia proprio molto molto scuro di carnagione riescono a abbassare l'immunità a livello tale che l'herpes si fa strada. Certo, ma quando non ci sono queste situazioni così clamorose, così note, così vissute, così conosciute da tutti, è evidente che bisogna pensare a qualcosa che non sia, che non venga dall'esterno. E allora a questo punto, evidentemente, parafrasando Anzio, il liopelle magnifico, diventa la cosa da considerare, chiaramente. Paolo ci chiama da Como, 800 24 00 24. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno, grazie dottoressa. State parlando di una cosa che a me è successo tre anni fa. Tre anni fa praticamente io ero disperato, psoriasi sulla testa, una dermatite seborroica che veramente sui cuscini al mattino mi vergognavo perfino di quello che veramente come li combinavo, no? Tutto è svanito quando ho cambiato ditta, mi sono trovato, è lo stesso lavoro, però ho cambiato ditta, mi sono trovato in un ambiente più sereno, ero più motivato e tutto, proprio completamente nel giro di un mese mi è sparito tutto e adesso grazie al cielo non mi è più ritornata. proprio un collegamento preciso. Perfetto, Paolo. Professor Gelmetti, un dermatologo deve, quando visita il suo paziente, proprio perché pelle e psiche, lei ci ha spiegato, sono più che parenti, sono che proprio parenti stretti, deve un po', no, lavorare su questi due piani. No, certo, infatti bisognerebbe che il dermatologo, ovviamente come gli altri medici, dedicasse più tempo a ascoltare il paziente. In questo caso, ad esempio, l'esempio era proprio paradigmatico. Non tutti ovviamente sono così fortunati, però cosa succede? Succede che la tendenza sbagliata del dermatologo è quella di considerare la pelle solamente come un vestito, come la carrozzeria, per cui se c'è una botta sulla portiera la portiamo in carrozzeria, il carrozziere non ci smonta il motore, ci mette a posto la portiera e basta. Invece in dermatologia è veramente diverso, cioè bisogna guardare la portiera, ovviamente, bisogna guardare la pelle, e in questo caso ovviamente il dermatologo, diciamo, che ci arriva meglio perché fa il suo mestiere, però assolutamente deve ricordarsi di essere un medico tutto tondo e di guardare cosa c'è dietro, perché se no ovviamente rischia di perdere il bandolo della matassa, cioè rischia di curare il sintomo magari molto bene, ma ovviamente se non si tirano le fila, il sintomo prima o poi si ripresenterà, mentre invece se riusciamo a salire alla fonte del problema, ovviamente chiudendo il rubinetto il fiume si secca. In questo caso ovviamente l'esempio era molto bello. Sì, anche perché, dottor Traverso, dall'esempio di Paolo abbiamo visto che la pelle è un po' il bersaglio privilegiato dello stress, naturalmente per alcune persone, perché poi c'è una risposta molto individuale allo stress, ma ci sono indubbiamente, me lo stanno scrivendo in tanti, ci sono già molti ascoltatori che chiamano, molte persone proprio non riuscendo forse a proprio dare voce con le parole ai loro disagi, alle loro preoccupazioni, si trovano a confrontarsi con una pelle che gli manda dei messaggi importanti: fermati, rallenta il passo, quasi che questo disagio, non trovando altre vie di uscita, si manifesti proprio sulla pelle. Beh, diciamo che innanzitutto quello che è capitato al nostro ascoltatore è esemplificativo di tutto l'argomento che stiamo trattando. Diciamo due cose onestamente: Paolo è stato molto fortunato perché comunque ha avuto una remissione molto rapida, e poi è stato anche fortunato perché è riuscito ad individuare quella che era la fonte di stress per lui, che era una causa esterna, e quindi è riuscito anche oltre ad individuarla, anche chiaramente a gestirla e a modificarla. Le cose sono un pochettino più complicate quando invece si parla di un disagio interiore che magari non ha esattamente la forma e la consistenza di un evento legato a un lavoro, a una relazione, a degli affetti che evidentemente creano dei problemi. Quando c'è questo disagio interiore, ovviamente dipende dalla capacità, dalla competenza della persona riuscire ad individuarlo oppure no, ed è questo il motivo per cui non sempre la remissione è così rapida. Maria ci chiama da Caserta, 800 24 0024. Buongiorno Maria, grazie. Buongiorno, e volevo chiedere all'esperto il significato di due macchioline che mi compaiono ogni tanto sul torace a sinistra, sempre allo stesso posto e hanno un diametro inferiore a un centimetro. Compaiono e scompaiono? Sì, scompaiono durante la giornata, non mi fanno prurito, è sistematico, però non l'ho correlato a nessun tipo, cioè all'alimentazione, perché è indipendente. Però lei ha pensato che cosa sta vivendo, se ci sono delle altre coincidenze? No. Allora, professor Gelmetti. A livello del torace, una delle zone più comuni di dermatite seborroica, che nei maschi, diciamo, è magari prevalente sul cuoio capelluto, lato del naso, però può anche presentarsi, e questo nelle donne anche si vede meglio, perché nelle donne in sede al petto, al décolleté, non ci sono peli, si può presentare con piccole chiazze arrossate che vanno e vengono. Di solito un'esposizione solare estiva tende a diciamo occultare questo fenomeno, perché tende ad esserci un miglioramento spontaneo, mentre invece quando uno rientra ovviamente dalle vacanze e effettivamente è costretto, virgolette, a vestirsi, sì, la cosa va e viene. Perché la pelle amerebbe andare nuda. Ma la pelle amerebbe seguire le stagioni, sì. Cioè, non c'è nessun motivo per cui il primo agosto uno si spogli completamente e il 31 luglio era completamente vestito in ufficio e il primo settembre si rivesta completamente sempre con 30 gradi e con un'umidità pazzesca. D'altra parte, dobbiamo quasi essere obbligati, però dal punto di vista biologico ovviamente è una stupidata colossale. Senta, professor Gelmetti, molte malattie della pelle peggiorano o si riattivano proprio in autunno, che è una stagione molto particolare. La pelle è sottoposta a stress esterni ed interni. Naturalmente l'autunno, il dottor Traverso ce lo dirà sicuramente meglio, è la stagione della ripresa, no? Bisogna riattivarsi, bisogna progettare, e questo per molti è fonte di preoccupazione, di stress e di disagio. Ma come lei ci diceva, noi in autunno dobbiamo rivestirci, c'è l'umidità, tra poco faremo i conti con il riscaldamento nelle nostre case, quindi insomma diversi stress. La pelle è uno scudo, una barriera, ma a volte ne paga le conseguenze. Ma sì, pensiamo ad esempio alle malattie di cui proprio abbiamo parlato con i nostri ascoltatori, psoriasi, dermatite seborroica, eczema. Allora, queste malattie, che sono purtroppo molto diffuse, risentono molto bene di un'esposizione assolutamente moderata. Non è che uno deve andare sulla roccia a capoteulada e star lì dal mattino alla sera, no, assolutamente, di una vita all'aria aperta con una normale esposizione al sole, alla luce, all'attività. E cosa succede? Succede che improvvisamente da un giorno all'altro noi siamo vestiti, e non solo siamo vestiti, ma siamo tra quattro mura, cioè andiamo a lavorare, andiamo a scuola, eccetera, eccetera. A questo si aggiunge che l'antropizzazione, cioè la densità densità di persone in uno stesso ambiente, basta pensare alle scuole, basta pensare ai trasporti pubblici, eccetera, ovviamente diventa assolutamente esponenziale. E poi al 14, 15, 16 ottobre comincia il riscaldamento. Allora, il riscaldamento è più o meno in tutte le zone, sì, italiane, e questo ovviamente porta un'esplosione a livello di inquinamento, che sommata alla mancanza di luce, la mancanza di attività fisica e alla densità della convivenza forzata in ambienti ovviamente ristretti, porta ovviamente a una riesplosione di queste patologie, anche se non ci fosse, e purtroppo spesso c'è, non ci fosse nessuno stimolo interno, nessuno stressor, certo, di tipo psicologico, che evidentemente in alcuni casi c'è. C'è. 800240024, dobbiamo dare la linea ai mercati e al meteo, ma come Roberto Scaltritti mi ricorda in regia, dobbiamo anche ricordarvi di fare un saltino nel nostro Daily Lab. Lo facciamo ogni giorno, un laboratorio del benessere per imparare a prenderci cura della nostra salute. Essere e benessere. Mai un'altra pelle, mai un'altra pelle io non vorrei. Ho vissuto dentro di lei quante battaglie, non sarei rattoppi ne ha, lacera e lisa qua e là. La pelle racconta, manda segnali molto chiari a chi sa leggerli. E allora, se come me magari siete ancora un po' indecisi e volete spiegare il prurito, quel prurito improvviso, il rossore, volete cercare di capire come e perché la malattia della pelle di cui soffrite si riattiva proprio in momenti di stress, e se è sempre lo stress e solo lo stress a farla riattivare, 800 24 00 24. Dottor Traverso, lei ha invitato gli ascoltatori che stanno rispondendo a chiedersi a dare un voto alla loro, non vorrei chiamare ansia, ma a quella sorta di agitazione che spesso ci prende al mattino. È vero, in effetti bisogna tenere conto, come dicevo qualche minuto fa, che il problema non è quello di individuare dei sintomi o delle sindromi cliniche, ma proprio di usare l'opinione comune, la convinzione comune di ciò che rappresenta quella agitazione immotivata, quella modalità appunto molto ansiosa di porsi di fronte agli eventi. Che cosa accade ad esempio quando un figlio tarda mezz'ora a rientrare a casa rispetto all'orario abituale? Cosa accade quando il padre partner tarda qualche minuto rispetto all'ora dell'appuntamento, il modo in cui ci poniamo in presenza di un impegno che ci riguarda nell'arco della giornata, ecco, queste sono tutte situazioni molto normali, molto quotidiane, che per qualcuno non significa assolutamente nulla e quindi significa poi in realtà adeguarsi a quelli che sono i ritmi della giornata, per qualcun altro sono fonti di stress notevoli e quindi darsi una votazione al mattino, o magari qualcuno più curioso può fare come la terapia medica la mattina, al pomeriggio e alla sera, darsi 3 voti nell'arco della giornata da 1 a 10 su quello che è la condizione di agitazione, quella che è la condizione di depressione, quindi sostanzialmente di un umore tendenzialmente basso, e si potrà vedere nell'arco di una settimana, 2 settimane, si potrà vedere che questa sorta di bioritmo del proprio umore spesso corrisponde alle manifestazioni fisiche, somatiche e in particolare alle manifestazioni della pelle. Professor Gelmetti, intanto che i nostri ascoltatori provano a fare questo esercizio, io vorrei parlare con lei di quei disturbi della pelle che, penso, di quei sintomi che appaiono e scompaiono, magari appaiono in momenti specifici della giornata, poi se ne vanno via. Penso al rossore, penso al prurito, penso a quella sensazione di secchezza che avvertiamo. Come si leggono? In effetti ci sono molti pazienti che hanno disturbi molto fugaci, sì. Allora in questo caso ovviamente bisogna fare molta attenzione al discorso, a quello che dice il paziente, avere per fortuna o purtroppo per la vita moderna, diciamo, che ci taglia un po' i tempi, ma bisogna avere pazienza. Perché? Perché ad esempio la storia del rossore del volto, molto spesso si è tendenti a sottovalutarla, magari attribuendola a pseudo imbarazzi, a pseudo vergogne, eccetera, che magari il paziente non percepisce. Certo. Magari il paziente è indotto a pensare che il suo rossore sia dato da vergogna, eccetera, eccetera, quando magari è l'inizio di un lupus eritematoso, che ovviamente è cosa ben diversa. Allora il lupus eritematoso tende a esordire abbastanza anche violentemente dopo un'insolazione, che ovviamente dà un rossore che però dopo normalmente deve attenuarsi. Se invece il rossore alle guance, diciamo, come si chiama, a farfalla, al dorso del naso, insorge anche per modeste esposizioni, quelle che possono essere ad esempio quando uno esce a mezzogiorno alla una per mangiarsi un panino prima di tornare al lavoro, bene, allora questo va tenuto presente, vuol dire che c'è una risposta esagerata a uno stimolo luminoso che non solo in condizioni normali non fa male, ma anzi, come dicevamo prima, fa bene. Fa bene. Professore, ma quali sono le altre condizioni? Lei ha citato il rossore, dicono sono timido oppure ho preso un po' di sole, che invece dovrebbero essere guardate con più attenzione e non spiegate solo come segni di emozione sulla pelle. Ma ad esempio quando abbiamo il rossore del volto, ovviamente il rossore del volto è un termine ambiguo, perché magari il paziente ce l'ha perché è un po' agitato durante la visita oppure a caldo, accaldato, eccetera, sì, eccetera, quindi va preso con le molle, perché chiaramente la visita per forza di cose non può durare una giornata, quindi non possiamo seguirlo, ed ecco perché la storia è importante. Però la visita del paziente in quanto tale, la visita completa, ad esempio nel caso del lupus, ci deve portare a guardare le mucose, ad esempio a fare aprire la bocca, vedere i polpastrelli, e allora se noi vediamo cose che il paziente ovviamente non aveva dato particolare peso o nessun peso affatto, se noi in questo caso riusciamo a vedere una concatenazione di segni che ci portano alla diagnosi giusta, in questo caso ovviamente riusciamo a togliere, a asseverare il grano dall'olio, cioè a togliere quello che magari è una componente ansiosa che pure il paziente può avere, invece da una malattia assolutamente di tipo organico, e quindi in questo caso ovviamente il dermatologo per la pelle può dire qualcosa di più. Andiamo a Venezia perché ci aspetta Paola. Buongiorno Paola, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Che voto si dà oggi, Paola? Io oggi sono a casa, quindi sono più tranquilla. Quindi stiamo sul 7,5? Rispetto allo stress più che altro del lavoro, insomma. Sì. per quanto riguarda. Quindi una buona giornata. Poi ci sentiamo e questo ci fa piacere. Paola, racconti. Sì, a me capita a volte di svegliarmi la mattina, avvertire un bruciore nel tronco o nelle braccia, e allora cerco da dove arriva questo bruciore e vedo, mi compaiono delle macchie rosse, rosse, sì, molto rosse, che poi evolvono durante la giornata, nelle giornate successive, anche con una bolla, con del liquido. Poi attorno si indurisce come la pelle, come se ci fosse un cratere, no? Sì. Poi, vabbè, pian piano scompaiono da sole e mi rimane però, la chiamano cicatrice, una macchia, sì, dove ho avuto questo episodio, insomma. Professor Gelmetti, prima di chiedere al dottor Traverso che cosa ad un medico psicoterapeuta suggerisce la geografia del rossore, che mi può sembrare una domanda interessante, anche uno spunto su cui riflettere per i nostri ascoltatori, la storia di Paola, ad orecchio come si dice, che cosa le racconta? Paola, una storia un po' complicata, nel senso che le lesioni sembrano essere della descrizione dei ponfi, cioè come quelli che vengono quando uno tocca un'ortica, sì, i quali sono effettivamente abbastanza rapidi come sorgenza e poi tendono nel giro di qualche ora a scemare. La cosa che non convince perfettamente nella descrizione è che dice che a un certo punto vede del liquido all'interno. Allora, vedere del liquido all'interno vuol dire che c'è un enzima, oppure ovviamente una puntura di insetto più grossa, che non è ovviamente diciamo, non c'entra nella nostra storia, nella storia di Paola. Per cui io in questo caso vorrei vedere queste bolle, nel senso che le bolle spontanee ci sono, per carità, ma sono in genere malattie relativamente rare, oppure relativamente importanti come il penfico, ma dalla storia mi sembra che la salute generale sia abbastanza buona, per cui non le prenderei in considerazione. Allora, adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Voi pronti a localizzare anche il vostro rossore, il vostro prurito? Faremo un'interpretazione a seconda della geografia, no, di dove si manifestano questi disturbi, una lettura dello psicologo, del dottor Traverso. Essere e benessere. Siamo tornati veloci, meno male, perché abbiamo tantissime cose da raccontarci. Una ce la racconta Marco dalla provincia di Taranto. Benvenuto. Buongiorno, Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Senta, io volevo chiedere al dottore, ho un problema ormai da tantissimi anni. Perché non ci ha chiamato prima? No, Marco, scusi. È chiaro. Niente, praticamente ogni volta che finisco, insomma, di fare la doccia, a volte mi capita anche al mare, a volte mi capita anche in piscina, quindi ogni volta che esco fondamentalmente dall'acqua, quindi che sono bagnato, che mi asciugo, ho un prurito su tutto il corpo. Ho provato diversi dermatologi, abbiamo provato diversi occhi, che in realtà non hanno risolto il problema, anche perché questa cosa succede anche se non uso nessun tipo di prodotto, quindi anche se cambia la temperatura dell'acqua. Anche se cambia semplicemente la temperatura dell'acqua. Professor Gelmetti, si può essere allergici all'acqua? Allora, questa è una bella domanda. Allora, diciamo di no, nel senso che noi in realtà viviamo immersi nell'acqua, il nostro corpo è immerso nel liquido cefalorachidiano, nel sangue, per cui diciamo di no. Il problema è che quello che succede al nostro ascoltatore è un fatto conosciuto, raro ma conosciuto, ed è quello che si chiama anche in un certo senso orticaria acquagenica, che vuol dire che è scatenata dall'acqua. In realtà cosa succede? Succede che ci sono delle sostanze sulla superficie della nostra pelle, cioè sull'esterno, veicolate dalle ghiandole sudorali e dalle ghiandole sebacee, quindi noi abbiamo 3 milioni di ghiandole sudorali. Sì, non uno scherzo. 3 milioni di ghiandole sudorali. Cioè, qui, tenerle tutte a bada è un'impresa. Esatto, le quali buttano fuori il loro secreto, il quale si deposita sulla nostra pelle e ovviamente a contatto con l'aria si asciuga, quindi la nostra pelle in condizioni normali la percepiamo come asciutta. Quando noi ci immergiamo nell'acqua, queste sostanze vengono sciolte, quindi vengono attivate. È come mettere del sale sull'unghia, lo sentiamo, mettere del sale sulla lingua che è umida, sentiamo certo. Tutto salato o se è zucchero dolce. Allora in questo caso la ricerca, che quasi sempre, questo non lo dico per scusare i colleghi dermatologi, ma lo dico perché è la verità, quasi sempre la ricerca della sostanza che viene immessa in soluzione dall'acqua è una difficile. Pratica di Sisifo, perché quasi mai si trova qualcosa e i test allergologici standard. Senta, ma cosa si fa? Non è che tutte le volte che si fa la doccia si soffre e quindi per smettere di soffrire se uno non lavarsi e si puzza, quindi che cosa si fa? Allora, una delle cose che si possono fare è vedere qual è la dose minima di antistaminico che serve per azzerare o perlomeno calmare il problema. Ovviamente per gli adulti bisognerà utilizzare quelli che non sono sedativi, tipo la levocetirizina o la perché la sennò ha pulito ma addormentato, sennò ovviamente uno sta bene ma fa la bene quando dorme. Certo. Dottor Traverso, rapidamente, perché noi andiamo anche a fare un saltino in Cina per parlare di medicina cinese, e vorrei parlare di questa geografia del rossore e del prurito, mani, viso, piedi, tronco, che cosa ce le raccontano? Beh, bisogna innanzitutto dire che l'argomento di cui stiamo parlando adesso ha chiaramente delle caratteristiche molto generali, quindi è opportuno che ogni ascoltatore poi si faccia le dovute tare su quello che appunto andiamo a dire. La cosa più semplice da fare è immaginare una figura di un corpo umano dividendola in tre parti fondamentali, sì. Che rimanda alla vecchia ormai tradizione divisione del corpo tra testa, cuore e pancia. Sì. Ora c'è una parte superiore, quindi tutto ciò che è il viso, l'arrossamento delle orecchie, problemi a livello del collo, ci sono delle problematiche dermatologiche che interessano il tronco, la schiena, sì. E ci sono delle problematiche gambe. Che interessano invece dalla pancia in giù. Pancia. Diciamo che questi tre settori rimandano poi fondamentalmente ai tre elementi probabilmente originari di determinati disagi di tipo psicologico, che sono dei disagi comportamentali, se il problema è collocato in alto, dei disagi legati alla propria affettività, se si tratta di tronco o schiena, e dei problemi legati alle proprie pulsioni, alla propria istintività, se si parte dalla pancia e si va in giù. Questa è la mappatura, diciamo così, a livello generale. Però d'altra parte ha ragione il professor Gelmeppi quando afferma che bisogna anche tener conto sì dell'importanza dello stress nell'apparire di malattie dermatologiche, però, ma anche considerare qual è il riflesso psicologico di malattie che chiaramente hanno un'enorme rilevanza dal punto di vista clinico del dermatologo, quindi considerare certo. Comunque lo stress come origine ma anche come componente secondario. Direi, no? Una variabile che non deve essere sottovalutato. Assolutamente, così come ogni persona è opportuno che valuti la propria reale condizione, perché ci sono degli stress che per degli individui sono ingestibili e per altri sono perfettamente gestibili. Assolutamente. Il dottor Traverso ci ha fatto una distribuzione ha diviso il nostro corpo in tre parti, la parte alta sul comportamento, affettività, e mentre sulle gambe abbiamo le pulsioni. Anche la medicina cinese ci aiuta a visualizzare un po' il nostro corpo. Vede il corpo umano come lo stato cinese antico con l'imperatore e i suoi ministri. Anche la pelle, che come abbiamo detto svolge tra le sue varie funzioni quello di barriera, di difesa, da limite tra l'esterno e l'interno al suo ministro, e ce lo facciamo raccontare dalla dottoressa D'Onofrio, che è in linea con noi, direttore scientifico del Centro Studi per le Medicine Naturali IDO di Teramo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno. Qual è il ministro della pelle? Il ministro della pelle è il polmone. Ormai qua essere benessere lo conosciamo bene. Ormai stanno diventando i nostri ascoltatori esperti di medicina cinese classica, io mi auguro. Dottoressa, il polmone noi sappiamo, allora se noi cerchiamo di far star bene un po' meglio questo ministro, sì, di assecondarlo, sì, di ridurgli lo stress, anche la nostra pelle migliora, possiamo, certo. Noi siamo in chiusura e io vorrei, sì, che lei desse rapidamente dei consigli, perché sappiamo, sì, che la medicina cinese utilizza ad esempio le erbe, utilizza anche degli, certo, oli essenziali, certo. Che cosa possiamo fare? Guardi, l'unica cosa che volevo che sapessero i nostri ascoltatori è che la pelle in realtà non è soltanto quella che consideriamo l'involucro esterno, ciò che ci delimita e ci avvolge, ma è anche in realtà la manifestazione in superficie di tutto quello che avviene nella profondità della persona. Quindi è la manifestazione e addirittura la possibilità di lettura di quelle che sono le nostre emozioni, i nostri stati d'animo o anche le nostre turbe emozionali, quando per esempio un sentimento ci perturba per troppo tempo, certo, parliamo della collera, della tristezza, dell'ira, della preoccupazione. Ognuna di queste emozioni, quando ci affligge per tanto tempo, darà delle manifestazioni sotto forma di patologie o piccole problematiche proprio sulla pelle. E quindi possiamo iniziare a scegliere quale di queste, per esempio, vogliamo curare o trattare, sì, e a riconoscerla anche. Mi dia un... poi andiamo anche sul... sì, mettiamo i suoi consigli anche sulla nostra, sì, pagina di Facebook, così, certo, i nostri ascoltatori, certo, possono attivare. Ma, certo, lei... c'è un olio essenziale prezioso, certo, che possiamo massaggiare o utilizzare per uso interno, certo, una gocciolina, lasciamo i nostri ascoltatori con questo, mi dia la ricetta. Le do la ricetta, quindi una goccia di olio essenziale di lavanda puro, quindi un olio essenziale per il quale noi abbiamo la certezza, il farmacista, l'erborista ce lo dirà, sì, di poterlo ingerire, quindi olio essenziale, sì, puro, oppure una sola goccia per uso interno, oppure massaggiarlo, esatto, da massaggiare proprio in fondo al sopracciglio, lì dove finisce la tempia, massaggiato per 1-2 minuti lentamente questa goccia di olio essenziale. Provate allora anche con l'olio essenziale di lavanda. Io devo scappare perché sennò mi strappano la lingua. Grazie al professor Gelmetti, al dottor Traverso, alla dottoressa D'Onofrio, a voi che siete intervenuti. Vi aspetto su Facebook. Essere e benessere.